Ecco, oggi si conclude questo breve ciclo di 5 giorni in cui la Chiesa ci ha offerto la lettura del libro del Coelet. E oggi c'è come la conclusione. Ed è una conclusione pesante, nel senso bello della parola, una conclusione importante. Abbiamo sentito in questi pochi assaggi che è un uomo disincantato, questo Coelet, però è un sapiente, è un saggio. E infatti il libro di Coelet fa parte dei libri sapienziali della Bibbia. E noi facciamo bene a metterci alla loro scuola. Dunque Coelet ha percorso tutte le note della scala musicale per dire goditi, abbiamo sentito ieri, la tua vita con la tua donna, con le bellezze, col profumo, però ricordati che, ecco, non smette di dire che tutto questo finisce, anzi ieri diceva ti è strappato via. Oggi conclude questo suo insegnamento dicendo: dolce è la luce, è bello vedere il sole, e anche se l'uomo vivesse molti anni se li goda tutti, ma pensi ai giorni tenebrosi, tutto ciò che accade è vanità. Godi, o giovane, la tua giovinezza, si rallegra il tuo cuore, segui pure i desideri dei tuoi occhi, sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Ecco, questo è l'insegnamento di cui abbiamo bisogno e che il mondo d'oggi avrebbe bisogno, perché l'ha dimenticato. Il mondo d'oggi ha rimosso totalmente dal suo orizzonte il pensiero della fine. Eppure mai, come ai nostri giorni, la fine è incombente. Io uso un'immagine quando mi dicono: sa, mio marito, mia moglie, mio figlio ha avuto una malattia grave, grazie a Dio l'ha superata, grazie anche delle vostre preghiere. Dico, sono contento, però siccome io non guardo in faccia a nessuno, ma guardo in faccia a Dio, gli dico: ringrazia Dio, ma sappi che Dio ha preso il tuo traguardo e l'ha spostato più in là. Ma il traguardo ci sarà sempre. E la gente mi guarda un po', ma dovrebbe ringraziarmi, perché gli dico la verità. Sappi però, conclude Coelet, che su tutto questo, anche la bellezza, anche la gioia, i tuoi desideri, Dio ti convocherà in giudizio. Ecco, qui c'è dentro un'allusione alla vita nell'aldilà, non è detta chiaramente, però ci aspetta un giudizio. Ma chi mai se la ricorda questa parola, amici? Alcune volte io ripenso all'insegnamento dei nostri vecchi, ma quanta sapienza c'era dentro, ma non ci sono più queste parole oggi. Oggi siamo tutti degli immortali, salvo poi ad avere una FIFA blu. Quanta gente non viene ancora in chiesa e non so se verrà. Ha paura, mandano i figli a scuola, li mandano in vari gruppi anche sportivi, ma sono tutti tutelati. E la Chiesa, più tutelata di così? Ah no, ma va bene, non morirete mai voi. Conclusione del discorso, dice Coelet, dopo aver ascoltato tutto, tutte queste note, temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché qui sta tutto l'uomo. Come mi piace questa frase. L'uomo sta tutto qui, nel guardare in faccia il suo Dio. Temi Dio, lo sappiamo nel linguaggio biblico, vuol dire onora, rispetta, ma non prendere così con superficialità il tuo rapporto con Dio. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché qui sta tutto l'uomo. Che è bello. Cos'è l'uomo? È un essere in faccia a Dio, è un essere che guarda in fronte Dio, adesso e domani nel giudizio. Infatti Dio citerà in giudizio ogni azione, tutto, anche ciò che hai nascosto, il bene e il male. E uno dice, caspita, ma alla fine ci metti ancora una zampata di ansia, no? Dio ti citerà in giudizio, è vero, questo è il messaggio di Coelet. Ma mentre io meditavo queste parole, subito si è affacciata alla mia mente un pensiero, la divina misericordia. E dicevo, che bello, l'Antico Testamento, io sono innamorato dell'Antico Testamento, ma non è l'ultima parola. L'ultima parola è Gesù. Il Gesù che ci è dato dalla Chiesa. Che bella anche la Chiesa, che dopo 2000 anni, con il Papa Giovanni Paolo II, istituisce la festa della Divina Misericordia. Io non mi stanco di meditare questo grande mistero in cui Gesù ti dice, per mezzo di Santa Faustina, ti dice che basta che tu gli lasci uno spiraglio e la misericordia di Dio ti invade. E allora concludo con questo pensiero. Io spero di morire sano. Cosa vuoi dire, Don Ambrogio? Perché si può morire da sani e da malati, no? Tanti che mi ascolteranno diranno, Don, io è 10, 20 e 30 anni che sono malata. Io mi avvio a morire da malata. E io ti metterò nel calice di questa santa messa, caro fratello, cara sorella, perché la malattia è brutta. Però, quando ci presenteremo davanti a Dio, da sani o da malati, chiediamo a Dio anche questa grazia, no? Non è vietato chiederla, di morire sani. Incontreremo la sua misericordia. Allora io non chiamo più la morte, lo chiamo l'incontro, l'incontro. E così sia, perché qui sta tutto l'uomo.